Ciao, mi chiamo Davide, c'ho 30 anni, non mi sono mai sentito come gli altri. La notte non riesco ad addormentarmi, ma non mollo mai, non posso accontentarmi. Oggi prendo un treno, domani un aereo, sotto gli occhi il nero, viaggio un giorno intero, mangio sto panino che non sa di niente. Ma gli artisti soffrono, chissà se è vero, poi ritorno a casa che non è più mia. Non la vedo, ma è ora una stanza d'hotel, mi sa, mi fa più nostalgia. Scusa, possiamo farci una fotografia? Guardo in faccia a mamma e mi sorride sempre, sì che è preoccupata, ma non dice niente. Mi faccio una doccia, mi cambio le scarpe, chiedo su in ufficio, a che ora si parte? Alle 10:30, fuori il finestrino, guarda che tristezza, col tramonto rosa, io qua sui sedili, che c'ho i sogni grandi come gli orecchini, tra il palco e la vita, come fa il confronto, sotto i 5.000, poi dormo da solo, che vorrei portarti ancora in giro al mondo, ma la verità è che non c'ho mai secondo in questa vita qua. Oggi sono vivo, domani chissà, penso che sono vivo solo per fare il rap e mi sento solo perché non c'è niente che mi fa sentire come questa merda. Esco fuori, piove, la finestra è aperta, sei sicuro che vuoi essere come me? Sotto la pioggia, no, non dirmi che vieni se poi qua non ci sei. Sì, forse sto male, però è tutto ok. Sì, forse sto male, però è tutto ok. Resto sotto la pioggia, yeah. Mi bastano gli occhi degli amici miei. Sì, forse sto male, però è tutto ok. Sì, forse sto male, però è tutto ok. Sono Pier Francesco per gli amici Pierfa. Mi chiami così, se non mi chiami è meglio. Sto bene da solo in mezzo alla tempesta. Lascio forte il segno, sono in notte sveglio. Non ci fosse lei, non ci fosse il rap, non saprei che farti, non sarei mai meglio. Perché c'ho 30 anni e metà dei miei drammi, e non so scordarli, me li tengo dentro. Evitavo mute, che la ti taccheggio. Con domande brutte, le risposte peggio. Non mi godo niente, cuore innalza sempre. Forse converrebbe prenderlo a noleggio. La palla è nostra, la squadra nostra, la faccia tosta, tutte quelle droghe lo facevo apposta. Poi diventi grande, si ferma la giostra. Quando sei famoso la gente si ferma, finge niente, risponde di merda. Non volevo fama, mi state sul cazzo, ma se fai la grana questo è il contrappasso. Ehi, fuori luogo ovunque, come uno straniero con l'accento strano. Si mezzo pugliese, si mezzo romano, sto in giro ogni mese ma vivo a Milano. Sempre di fretta, restare in vetta, essere in voga, poi il cattivo esempio nel tempo di una sigaretta. Fare gavetta e cambiare scaletta, per fare ciò che nessuno si aspetta. Hey, per fare ciò che nessuno si aspetta. Sei sicuro che vuoi essere come me? Sotto la pioggia, no, non dirmi che vieni se poi qua non ci sei. Sì, forse sto male, però è tutto ok. Sì, forse sto male, però è tutto ok. Resto sotto la pioggia, yeah. Mi bastano gli occhi degli amici miei. Sì, forse sto male, però è tutto ok. Sì, forse sto male, però è tutto ok.